Ciao, ciao, ciao, sono Barbara e questo è il penultimo episodio di Yogurt Acid Care per un secondo lockdown. Yogurt Acid Care è il mio progettino che prevede una visione estensiva e fluida della pratica dello yoga, non applicata in un contesto bucolico, ma in un contesto frenetico e urbanizzato, che è quello dove viviamo. Trasmetto da Milano, siamo ancora in questa seconda fase rossa. Non si sa bene quando esse terminerà, doveva durare 2 settimane, il progetto era il mio contributo di 2 settimane con mantra e pensieri per facilitare il nostro mood mattutino e quindi anche influenzare il mood della giornata. Gli episodi sono totalmente 14, oggi siamo al 13esimo. Abbiamo visto 12 mantra e rimarremo con quei 12 lì. Oggi rivediamo 6 di questi 12 mantra e ognuno sceglierà quali si sente più vicini da praticare. Ormai sappiamo tutte che cosa sono i mantra. Non lo ripeterò per l'ennesima volta in maniera dettagliata, ma abbiamo visto questi 12 mantra cibo per la nostra mente e connessione diretta con l'anima. E oggi ripassiamo 6 di questi. Avevano un significato abbastanza profondo, molto profondo. È abbastanza inerente a questa situazione, li ho scelti apposta. Ho scelto dei mantra molto brevi perché in realtà la maggior parte dei mantra più tradizionali sono dei testi abbastanza lunghi. Il primo mantra che abbiamo visto era Om Namah Shivaya, Ricordo che è un'adorazione verso Shiva, che è anche il dio che rappresenta distruzione e trasformazione, ed è un mantra che in qualche modo è un mantra guaritore e purificatore che ci invita a venire a patti con la morte e la distruzione e a trarre conforto anche in questo contesto di discomfort. Om Namaha Shivaya. Abbiamo visto poi Om Mani Padme Ham, che significa Padme era il loto. Questo mantra ci invita a rinascere, a evolvere, a raise, venire su come dei gioielli dal fango. Questo è un mantra che purifica il karma negativo e i primi quattro corpi dello yoga. Lavora un sacco sul chakra del plesso solare e può affusolire sentimenti di rabbia, violenza e gelosia. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Abbiamo poi visto Soham, che è un mantra molto semplice che aiuta la concentrazione e il respiro. Significa I am that, io sono quello, inteso come la realtà ultima. I am the mirror, sono lo specchio della realtà ultima. E si pronuncia So durante l'inspiro, Ham durante l'espiro. È un mantra di supporto, di protezione. Si può connettere un mudra unendo pollice e indice in Janana Mudra. Abbiamo poi visto Sat Chit Ananda. Io sono della natura di questa consciousness. Sat Chit Ananda ci racconta la consciousness. La realtà è fatta di consapevolezza e gioia. La gioia è affrontabile solo attraverso la consapevolezza. Si può fare esperienza della realtà solo attraverso questo stato difficilissimo di gioia, Ananda, l'ultimo goal dello yoga, lo stato più elevato e difficile da raggiungere. E l'ultimo mantra che oggi vedremo è Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi, che significa io sono la Brahma, io sono questa energia universale. Ognuno di voi può scegliere il mantra che più ha sentito vicino, o addirittura alternare la recitazione di un paio di mantra. Om Namah Shivaya. Om Mani Padme Hum. Soham Sat Chit Ananda Aham Brahmasmi. Ah, scusate, ci può stare anche un altro. Aham Pranosmi, che è molto vicino a Aham Brahmasmi, ma ha una connessione con il respiro, con il prana, l'energia pura. Io sono il respiro, io sono l'energia. L'energia mi attraversa. Cerchiamo di percepire questo mantra a livello energetico attorno a noi. Aham Pranosmi. prima di prepararci per questa penultima pratica, vi ricordo che il mantra lo potete recitare a voce alta o mentalmente, che deve durare, a parte Soham, che sconsiglio di pronunciare a voce alta perché è complesso. Soham include l'inspiro. A parte Soham, dovete inserire il mantra durante la durata dell'espiro, senza forzare né il mantra né il respiro. Potete alternare la ripetizione dei mantra, sceglierne un paio, due, tre, che sentiamo più vicine alla nostra condizione e alla nostra anima, e alternare la ripetizione di questi. Cerchiamo di mantenere salda la consapevolezza durante la meditazione sul significato che ogni mantra che pronunciamo ingloba e sul riverbero che sentiamo interno a noi da ogni chakra. Vi ripeto un'ultima volta i mantra per familiarizzare ancora una volta con le sillabe che li compongono. Om Namaha Shivaya. Om Mani Padme Hum. Soham. Sat Chit Ananda. Aham Brahmasmi. Aham Pranosmi. Om Namaha Shivaya. Io traggo conforto anche dallo sconforto che mi circonda. Om Mani Padme Hum. Io mi elevo dal fango e divento un gioiello, un loto, qualcosa di spettacolare. Soham, io sono la realtà ultima, io sono ciò. Sat Chit Ananda, l'esistenza è consapevolezza, è gioia pura. Aham Brahmasmi, io sono Brahma, l'energia ultima, l'assoluto. Aham Pranosmi, io sono il respiro, il prana. Ci prepariamo alla nostra meditazione quotidiana, trovando una posizione confortevole, sedute o sdraiate. Facciamo tutti gli aggiustamenti necessari. Facciamo qualche stretch se ne abbiamo bisogno per risvegliare la nostra colonna. Ci Una volta che abbiamo fatto gli stretch e trovato la posizione in cui ci sentiamo comode e a nostro agio, promettiamo al nostro corpo di lasciarlo andare per tutta la durata della Shavasana. Chiudiamo gli occhi. Se abbiamo gli occhiali, portiamoli da un lato, leviamoli per un secondo. Portiamo tutta la nostra attenzione all'interno, diventiamo una volta per tutte delle osservatrici esterne rispetto a noi stesse. Osserviamo noi stesse senza giudizio né interazione. Portiamo i nostri sensi al retro del corpo e sentiamo gli appoggi del retro del corpo alla superficie che lo sostiene. Sentiamo poi velocemente ogni parte del corpo per rilassarla. Con un piccolo yoga nidra sento i piedi. Espirando rilasso i piedi completamente. Sento le gambe. Percorro col mio espiro le gambe, le lascio andare, vado all'addome. Sento e distendo completamente l'addome. Lascio andare il diaframma e sento il torace. Rilasso completamente la cassa toracica, sterno, spalle. Rivolgo i sensi alla colonna e la percorro con il mio espiro, rilassando ogni vertebra. Sento le braccia, le lascio andare, arrivo alle mani, distendo completamente le tensioni dalle mani e dalle braccia, rivolgo i miei sensi al collo e al capo. Lascio andare le tensioni dalla gola e dal retro del collo. Ascolto i miei capelli, la superficie del viso. Lentamente rilascio tutte le tensioni. Distendo la bocca, dischiudo i denti e le labbra ed espirando lascio che il mio viso sia sorridente e raggiante. Rilasso il naso, le narici, le vie aeree interne. Percepisco gli occhi, le palpebre, le sopracciglia, rilasso completamente le tensioni oculari. Infine rivolgo i miei sensi e l'attenzione al centro della fronte, al terzo occhio. Tra le due sopracciglia cerco con qualche ispiro più profondo di appiattire completamente le attività che si concentrano in questa zona del mio corpo. Rilasso profondamente la mia fronte. Osservo il mio corpo dall'interno, il mio respiro, la mia mente. Profondamente rilassati e connessi, cerco di mantenere questa connessione durante la meditazione coi mantra. Possiamo scegliere due o più mantra da alternare durante la nostra meditazione tra Om Namaha Shivaya. Om Mani Padme Ham. So Ham. Sat Chit Ananda. Aham Brahmasmi. Aham Pranosmi. Om Namaha Shivaya. Om Mani Padme Ham. So Ham. Sat Chit Ananda, Aham Brahmasmi, Aham Pranosmi. Ognuno porti avanti la propria meditazione. Se alternare i mantra crea difficoltà, procediamo con uno solo. Lasciamo andare gli altri, no problem. Lasciamo andare il mantra quando sentiamo il suono della campanella. Enjoy your meditation. Thank you. Lentamente iniziamo ad abbandonare i mantra. Facciamo qualche respiro più profondo per risvegliare lentamente il corpo. Riconnettiamolo muovendo gentilmente le dita delle mani e dei piedi. Possiamo anche decidere di proseguire la meditazione. Spero che questi 13-14 giorni di mantra abbiano avuto qualche riverbero durante le vostre giornate. Mantenete alta l'attitudine nei confronti della giornata, decidendo voi come settare il mood ogni mattina. Abbiamo parlato anche dei 7 switch per la felicità. Manteniamo quei valori saldi nel nostro cervello. Il 6° switch diceva di essere a servizio e darci. Give yourself. Make your best effort. Diamo il meglio. Diamoci in quello che facciamo, nelle persone che ci circondano, nei pensieri, nelle azioni. Se facciamo una cosa, facciamola davvero. Diamo il meglio. I risultati poi li otterremo. Diamo il meglio, piantiamo un semino, facciamo del nostro meglio e poi lasciamo che l'universo lavori con la sua energia e magia, senza aspettarci dei risultati fissi. Se abbiamo dato il meglio, qualcosa ci tornerà indietro, considerando che siamo in tempi difficili. Io vi lascio così per oggi. Grazie per avermi ascoltata anche stavolta. Ci sentiamo domani per l'ultimo episodio. Buona giornata a tutte le anime. Ciao. Thank you.